Radio 24 Reportage. La prevenzione dell'emergenza in Europa. Italia apripista. Di Anna Marino. In ogni calamità naturale, dalle alluvioni alle frane agli eventi sismici in Europa e soprattutto in Italia, si è dovuta gestire l'emergenza, come nel post-terremoto dopo un lungo boato e il sibilo degli allarmi in lontananza che suonano all'impazzata. Così è stata sentita nel 2016 a Porto San Giorgio, comune della provincia di Fermo, nelle Marche, la violenta scossa di magnitudo 6.5 che ha fatto tremare il centro Italia. E la domanda è sempre la stessa: si poteva prevenire? Al di là delle conoscenze e delle risposte scientifiche, la prevenzione insieme alla gestione delle emergenze sono i due pilastri che in Europa guidano fondi europei e l'azione delle istituzioni. Secondo la Commissione europea, infatti, un euro speso in prevenzione permette di ridurre di almeno 4 euro le spese legate all'emergenza, alla ricostruzione e al risarcimento, quanto possibile, dei danni provocati dalla calamità. E l'Italia è il paese europeo con maggiori criticità, confermato dal fatto che il nostro paese è il maggior beneficiario del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, con circa 2,5 miliardi di euro ottenuti, pari alla metà dell'importo totale erogato ai 28 paesi membri negli ultimi 15 anni. Ma l'Italia è anche uno dei paesi europei con elevata densità abitativa e un tessuto industriale che è uno dei valori più elevati in Europa. Ben 62 imprese ogni 1000 abitanti. E proprio le imprese italiane hanno fatto da apripista tra gli Stati membri, assumendo un ruolo di prima linea, adesso come in passato nelle emergenze, per promuovere e mettere a terra la prevenzione sul territorio, sia in Italia sia in Europa. E hanno portato lo scorso novembre al Parlamento europeo e alla Commissione europea il PGE, il programma gestione emergenze, firmato da Piccola Industria Confindustria e Dipartimento Protezione Civile, oltre a diverse proposte rientranti nel Green Deal, con gli obiettivi della resilienza e della sostenibilità nel tempo di fronte alle calamità naturali e alle emergenze sanitarie come quella del coronavirus, come spiega Carlo Robiglio, presidente della Piccola e Media Impresa in Italia. Orgogliosi di aver lanciato una best practice, che è quella dell'impegno come primi attori delle imprese all'interno di problematiche che toccano, appunto, in questo caso è successo in Italia, ma che potrebbero toccare chiaramente altri paesi europei, legate a cataclismi o quant'altro. L'emergenza coronavirus è l'ultima delle emergenze di questi anni, ahimè, che hanno toccato il nostro paese, ma il programma PGE e Confindustria sono in pista proprio per supportare col network delle nostre imprese le esigenze nazionali e nello specifico della protezione civile. Come può rilanciarlo l'Europa anche nel Green Deal o anche, diciamo, nell'incentivazione di una prevenzione di un rischio anche a livello territoriale in Europa? Su questo tema noi possiamo fare moltissimo, noi come Italia, ma in particolare proprio come modello. Possiamo innanzitutto portarlo, come già stiamo facendo, all'attenzione dell'Europa. Dobbiamo chiaramente costituire dei tavoli di riflessione comune, perché innanzitutto bisogna creare le premesse, i processi, perché un conto è dire, un conto è fare. Il modello è una rete di referenti, sia imprenditori che funzionari delle associazioni di Confindustria, provenienti da tutto il territorio nazionale, che grazie al coordinamento di Piccola Industria Confindustria riesce a mobilitare le risorse del sistema confederale, operando in stretto contatto con il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Grazie all'attivazione di un gruppo WhatsApp riesce a lavorare in emergenza e gestire in maniera efficace ed efficiente le donazioni legate alle emergenze. Alla sua prima esperienza del 2016 in risposta al sisma del centro Italia ha visto il coinvolgimento di più di 250 aziende e associazioni che hanno offerto beni e servizi, con l'impegno personale di tanti imprenditori, funzionari, volontari, istituzioni, privati, cittadini, per un valore medio stimato di risorse impegnate pari a circa 3 milioni di euro, e si è rafforzato nel tempo. Ci spiega come è nato il modello che ora si appresta a diventare europeo Diego Mingarelli, vicepresidente per l'Europa, sviluppo e coesione territoriale, resilienza e PGE. L'idea nasce con il sisma di Mirandola, quel sisma che fa comprendere come l'interruzione della continuità di un'impresa non è un problema soltanto del territorio, ma è un problema anche in un'economia interconnessa di aziende anche molto lontane. Quel terremoto ha avuto riflessi anche nel distretto del biomedicale, anche nel nord Europa. Ecco, da lì nasce questa relazione forte che trova la finalizzazione nel programma di gestione emergenze che è stato sottoscritto nel 2016 e che ha avuto con il sisma del centro Italia la sua prima attuazione. Abbiamo costruito una rete di 100 referenti sul territorio che avevano l'obiettivo di fornire nelle aree del sisma quello che serviva al momento che serviva e dove serviva, in una collaborazione forte e stretta con Protezione Civile. Protezione Civile che ci segnalava quali erano le necessità e la manifattura dell'Italia che abbiamo messo al servizio delle aree colpite da quel sisma, che rispondeva grazie alla generosità di tanti imprenditori e che consentiva alle popolazioni, ma anche ai loro colleghi imprenditori, di poter lavorare su una cosa, la continuità d'impresa, che è un bene prezioso nell'uscita dall'emergenza. Cioè non riguarda soltanto la popolazione, perché un territorio senza un'impresa che continua a lavorare è un territorio che rischia lo spopolamento, e ecco perché è nato il programma di gestione emergenza. Ecco, da un momento di spontaneità appunto è nato un documento, un protocollo e un modello. Quale? Il modello che mira a lavorare su due cose: in gestione d'emergenza lavorare sulla continuità d'impresa, e fuori dalla gestione dell'emergenza lavorare sulla diffusione e la cultura di prevenzione, che è ancora più importante per le aziende più piccole, che sono le più fragili. L'Italia ha una bellissima manifattura diffusa, spesso le aziende lavorano a stretto contatto di piccole comunità e quindi sono un bene prezioso per quelle comunità. La cultura del rischio deve diventare un patrimonio della stessa cultura d'impresa, perché il rischio si può gestire attraverso la cultura della prevenzione. Quali sono appunto le modalità di questa rete di referenti? Come funziona questa rete? Utilizziamo una chat di WhatsApp che è velocissima, dove i nostri referenti della Task Force PGE, in contatto con Protezione Civile, raccolgono la necessità, il fabbisogno, e la rilanciano all'interno del sistema, che in maniera capillare opera su tutta Italia. Questo ci consente di dare risposte veloci, perché riusciamo a individuare l'azienda che può dare una risposta a quella necessità in tempi rapidissimi, grazie a questa capillarità fatta di referenti che conoscono bene tutto il tessuto manifatturiero dei loro territori. Questi referenti, è una rete che si è ampliata nel tempo? Chi sono? Per esempio adesso stiamo lavorando come Task Force PGE sul tema dell'emergenza coronavirus. Abbiamo rilanciato quelle che erano le necessità di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale, e abbiamo mappato tutte le aziende che sono produttrici di questi articoli, e in stretto contatto con Protezione Civile oggi abbiamo un forte raccordo a livello centrale per consentire a queste aziende di garantire le forniture in questa emergenza sanitaria agli ospedali, ma anche alle aziende che ne avevano bisogno, proprio per cercare di mettere in sinergia la manifattura con i fabbisogni legati all'emergenza e per garantire ovviamente la continuità delle forniture, che è un valore estremamente importante. Questo protocollo interviene anche dopo, per supportare le imprese e le associazioni nella fase della ripresa dell'attività lavorativa, quindi bisogna pensare anche al post-emergenza. Il 50% delle calamità europee purtroppo sono nel nostro paese. Sul piano europeo abbiamo visto che sono molto attenti soprattutto su due temi: l'analisi del rischio, il risk assessment, e lo vediamo anche con le emergenze di questi giorni. Le aziende devono essere consapevoli di come gestire i rischi legati all'interruzione magari di una catena di fornitore, o anche di saper capire come possono rispondere alla gestione di un'emergenza. Nell'ambito del Green Deal europeo, e quindi tutto quello che è legato ai fenomeni del cambiamento climatico, noi stiamo cercando, e la nostra proposta è quella di creare un meccanismo di incentivazione il più possibile automatico, che possa incentivare gli investimenti delle aziende per aumentare la resilienza degli impianti, meno soggetti a dei rischi che possono essere legati a delle calamità. Le piccole e medie imprese, che sono la spina dorsale dell'economia italiana, sono già considerate strategiche, non solo sul fronte prevenzione, anche dall'Europa, in tutti gli Stati membri. Ed ecco l'applicazione pratica di come la rete tra Protezione Civile e imprese funzioni e possa essere esportata appunto in Europa. Fausto Bonelli è un imprenditore la cui azienda MC Elettronica, che fa parte di una rete di imprese della zona di Pesaro Urbino, Team Group, che aveva sedi colpite dal terremoto e che da allora si è attrezzato perché non capiti mai più di farsi sorprendere impreparato dall'emergenza. Quando c'è stato il terremoto nell'Emilia Romagna, noi abbiamo alcuni clienti importanti lassù e ci siamo fermati. Visto che avevo perso un paio di mesi di fatturato, io sono tornato a casa e ho deciso di adeguarmi alle norme antisismiche. La nostra zona è una zona abbastanza sismica, quindi non abbiamo avuto i danni che ha avuto l'Emilia Romagna, però siamo proprio nella falda, siamo a 10 chilometri e il fatto che noi nei capannoni ci lavoravamo, quindi facevamo tutti i venerdì sgombero di alcune aree e poi il sabato e la domenica io per un anno sono stato qui con i muratori e con gli elettricisti con quant'altro per fare i lavori e lunedì si ripristinava quell'area che dovevamo lavorare, quindi è stato un sacrificio immenso. In caso di terremoto simile all'Emilia Romagna, noi siamo una di quelle poche aziende che non verrebbero a controllare per dare agibilità, perché quello che abbiamo fatto è sufficiente per terremoti simili a quelli dell'Emilia Romagna, soprattutto come sicurezza del personale, ma dà anche una garanzia di business continuity verso i miei clienti. Secondo lei questo modello va portato in tutta Europa? Ha funzionato? Funziona? Sì, sì. Quando si ha attenzione alla prevenzione si lavora più tranquilli. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.